2. Ascolta e ripeti. Hai spazio per sederti? È scomodo portarsi dietro tutto questo peso. Non è meglio liberarsi di tutte quelle chiavi? Non è per niente pratico, ma fai come preferisci. Non devi preoccuparti di queste cose. Si avvicinano i signori bianchi. Piano, si sveglia la piccola. Come ti chiami, piccola?